Immagina di essere in un parco pubblico, un pallone si avvicina a te, arriva un bambino di 2 anni, tira un calcio per prendere il pallone, ma prende invece la tua gamba. Al di là del male che ti ha fatto, che cosa succede dentro di te? Ti arrabbierai con questo bambino? Ti farai una panciata di nervoso? Gli dirai di tutto? Probabilmente ti fai una mezza risata e la cosa finisce lì. Immagina però che un tuo collega si avvicini alla tua scrivania e con tranquillità ti sferra un bel calcio negli stinchi. La tua reazione credo che sarebbe completamente diversa. Che cosa voglio dire? Quello che proviamo dentro di noi, le emozioni che nascono in noi, non dipendono soltanto da quello che ci accade, ma dipendono in parte anche dal significato che noi attribuiamo a quella situazione. Un altro esempio, hai appuntamento con la tua fidanzata, sono passati 20 minuti dall'orario che avevate previsto e lei non si fa ancora vedere e non riesci neanche a contattarla in nessun modo. Allora, puoi pensare ad esempio che ti stia tirando il pacco, che un bel 2 di picche si stia avvicinando in lontananza in modo deciso e sentirai rabbia, tristezza, senso di abbandono. Oppure puoi pensare che le sia successo qualcosa. In questo caso avrai ansia, paura. Finalmente arriva, dopo 20 minuti, in estremo ritardo, e ti dice che c'è stato un rallentamento incredibile per la strada, ma che il telefono era completamente scarico e quindi in nessun modo è riuscita a contattarti. Ecco che rabbia, paura, tristezza, ansia spariscono in un attimo e potete finalmente abbracciarvi in modo liberatorio. Quindi, se è vero che in parte le emozioni dipendono anche dai nostri pensieri, non sarà anche vero che se noi interveniamo sui nostri pensieri, di conseguenza riusciamo ad intervenire anche sulle nostre emozioni? Sto parlando di quello che Olivia Fox Cobain chiama la riscrittura creativa della realtà, che tecnicamente a volte viene anche chiamata la rivalutazione cognitiva di ciò che ti è accaduto, ovvero tramite pensieri diversi vedrai la realtà in modo diverso. Vi faccio ancora un esempio, siete nel traffico e ad un tratto guardate nello specchietto retrovisore che c'è una macchina che sta venendo all'impazzata a zig zag, facendo delle manovre incredibili, vi sfreccia sulla destra e voi che cosa fate? Come minimo dentro di voi dite, ma che cavolo stai facendo, brutto deficiente? Ecco, questa è proprio una delle situazioni in cui con un po' di fantasia puoi provare a riscrivere la realtà, cioè puoi pensare che dentro quella macchina ci fosse una mamma con il suo bambino che ha in questo momento un fortissimo attacco d'asma e allora lei sta cercando di raggiungere nel modo più velocemente possibile casa sua, dove potrà finalmente prendere la medicina e salvare il suo bambino. Con questo nuovo pensiero in testa, probabilmente la rabbia lascerà spazio ad altri sentimenti dentro di te. Attenzione però, questa tecnica non può funzionare sempre. Può funzionare soltanto in quelle situazioni in cui abbiamo poco oppure nessun controllo della realtà. Voglio dire, quella macchina è passata, probabilmente non la vedrete mai più. E allora pensare in modo diverso può aiutarti a provare un'emozione diversa. Oppure se magari sei in aeroporto, sai che hanno cancellato il tuo volo e che dovrai rimanere lì seduto su una sedia per 3 ore. A quel punto potrai anche pensare che hai l'occasione di farti una visitina non prevista nei dintorni dell'aeroporto dove ci sono quei monumenti. Oppure con tutta calma puoi leggerti un libro. Oppure sei a un concerto e vedi che il tuo cellulare si è scaricato. Mannaggia, non potrò fare nessun video, nessuna fotografia. In quel caso potrai invece pensare, ah però che bello, potrò godermi il concerto senza focalizzarmi sulla ripresa che ne potrò fare. Invece in situazioni in cui abbiamo un certo controllo della situazione, beh, allora forse più che pensare in modo diverso ci aiuterà a affrontare quella situazione. Se hai litigato con quella collega, piuttosto che pensare che sopportandola eroicamente ti faranno santo, magari prova a parlarle, prova ad affrontare questa situazione. Riepilogando, la prossima volta che ti troverai in una situazione, a provare rabbia per qualcosa che comunque non puoi assolutamente modificare, qualcosa di cui non hai il controllo. Prova a pensare in modo diverso, rimarrai stupito dagli effetti positivi che riscrivere la realtà in modo diverso potrà avere dentro di te. Dimmi cosa ne pensi e scrivi un commento qui sotto se ti sei trovato in situazioni simili in cui magari con un po' di fantasia sei riuscito a trasformare la rabbia in qualcosa di diverso. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un bel mi piace e condividi il video se ti è piaciuto.